2. Il racconto di Karen Dinesen Blixen. Saluto questo onorevole consesso. Sinceramente, non pensavo di meritare questo onore, dato che non sono stata molto altruista nella vita che ho vissuto come Karen. Ho sempre solo fatto ciò che mi andava. Mi sono sempre preoccupata di me stessa, non ho mai combattuto per cause o ideali che non fossero strettamente connessi al mio benessere. Se qualche merito ho avuto verso la sorellanza, è stato tentare di essere un'imprenditrice, una donna d'affari in un mondo coloniale dove le donne erano solo mogli o sorelle dei funzionari di Sua Maestà Britannica. Sì, tentai di proteggere i Kikuyu che vivevano su quella che per anni avevo definito la mia terra, ovvero la terra che avevo comprato in Kenya coi soldi di mia madre. Solo dopo molto tempo divenni cosciente che la terra era loro, non mia. Ne presi a lavorare per me alcuni che si trovavano in difficoltà, specialmente i ragazzini che avevano avuto malattie o brutte ferite e che altrimenti non sarebbero stati in grado di sopravvivere. Altri cercai di salvarli, tra virgolette, dalle spietate faide tra tribù, prestandomi a impersonare il ruolo della Hamsabu, della matriarca bianca, che dispensa giustizia e salvezza. Ma aiutarli soprattutto nutriva il mio cuore quando era assetato d'amore. Infatti, se non avevo voglia di occuparmi di loro, prendevo il cavallo e scappavo. Quando dovetti tornare in Danimarca, perché ero economicamente rovinata, feci il possibile perché i Kikuyu, che da sempre vivevano su quella che era stata la mia terra, potessero essere trasferiti in una riserva e potessero continuare a stare tutti insieme. Ma ancora una volta non so se lo feci per loro o per me, perché forse mantenendo tutti e tutte loro unite come perle di una collana, i ricordi della mia incredibile avventura africana non sarebbero sbiaditi e avrei potuto narrarli. Fui feroce nello sparare, uccisi tanti animali col mio fucile, poiché, beh, sì, mi dava ebbrezza. Ciò nonostante, nella mia fattoria ne accolsi di feriti o orfani, una cicogna con l'ala spezzata, una piccola antilope dal pelo setoso e dai grandi occhi che chiamammo Lulu, cui era stata uccisa la mamma, permettendo loro di sopravvivere. La mia smania di uccidere animali presto svaporò e imparai ad osservarli senza sparare. Avevo con gli animali e con la loro vita o morte un rapporto davvero poco chiaro, ma del resto nulla nella mia vita lo è mai stato. Non sparai mai agli elefanti. Loro ai miei occhi non erano animali, erano lo spirito stesso dell'Africa e non si può sparare agli spiriti. Al mio ritorno in Danimarca, quando finalmente mi dedicai a registrare le mie memorie, in Out of Africa scrissi: la libera unione fra la mia casa e Lulu mi pareva una cosa preziosa e rara. Venendo dal mondo selvaggio, lei era la prova della nostra amicizia con esso. Creava un legame inscindibile tra la mia casa e la natura africana, sicché nessuno poteva dire dove finisse l'una e cominciasse l'altra. L'alleanza tra la famiglia dell'antilope e la mia casa durò molti anni. Gli anni in cui l'antilope e i suoi cuccioli venivano a gironzolare intorno alla casa furono i più felici della mia vita. Finii per considerare la mia familiarità con le antilopi come una grande benedizione, una prova di amicizia che l'Africa mi concedeva. Sì, credo di aver sempre pensato alla natura dell'Africa non tanto come a un insieme di flora e fauna, quanto come a un unico organismo, senziente e sacro, un aspetto, sì, della grande madre. Come tutta la gente del nord, anche io fui attratta dal caldo dei paesi esotici. L'Africa era il sogno che mi avrebbe permesso di misurare le mie forze e di vivere come un uomo, come te, Gertrude, e come molte altre sorelle che già in passato hanno parlato di fronte a questo onorato consesso. Vivere come un uomo significava anche per me essere indipendente, autonoma e libera, poiché vivendo come una donna non avrei mai potuto sperimentare la libertà di azione e di pensiero che andavo cercando con forza. All'inizio credevo di essere materialista. Mi piacevano il cibo, il vino, mobili, porcellane, libri e fucili e sì, anche il sesso. o meglio l'idea che me ne ero fatta, fantasticando su una ideale libera unione di corpi e anime. Invece in Africa conobbi un sublime misticismo, una spiritualità pagana e animista che al mio rientro in Danimarca coltivai e trascrissi nelle molte pagine che ogni giorno vergavo dal mio tavolino affacciato sulla piatta campagna ghiacciata fuori dalla mia finestra. Non ebbi mai fiducia nel matrimonio e pagai un prezzo altissimo per la mia ingenua spontaneità sensuale. Ebbi la sifilide, che peraltro mi fu trasmessa dal barone Blixen, mio cugino e marito. Sposai Blixen perché solo in quel modo mia madre mi avrebbe finanziato la fattoria in Africa. Ho sempre pensato che l'amore non avesse nulla a che fare col matrimonio. Ero l'amante di un uomo, ne sposai il fratello e infine ne amai un terzo che mi spezzò il cuore. Ma in realtà fu con l'Africa che mi sposai. Le appartenni dal primo momento e il tempo trascorso lontano lo dedicai solo a ricordarla. La sorte mi tolse tutto ciò che amavo, ma ciò faceva parte dell'addestramento a essere me stessa, come te, Gertrude. Se non avessi viaggiato e vissuto lontanissima da casa e se non avessi perso tutto, non avrei mai trovato la mia anima. Fu mia madre Ingeborg che mi sostenne sempre economicamente in Africa e psicologicamente quando tornai a casa in Danimarca, povera e malata. Ingeborg, mia madre, pur non condividendo le mie scelte di vita, mi permise di scrivere e non mi giudicò mai. Mio padre, invece, il sognatore che ispirava i miei sogni, colui che abbandonò carriera e famiglia per fuggire libero in America, fare il cacciatore di pelli, amico degli indiani, ebbe il cattivo gusto di suicidarsi e di lasciare per intero la responsabilità di tutte e tutti noi sulle spalle di mia madre. Nonostante della mia vita lunga abbia vissuto in Africa solo una piccola parte. Quando tornai in Danimarca continuai a sentire i tamburi in lontananza e il battere ritmico di piedi e bastoni sulla terra durante le ngomas, le danze rituali propiziatorie. E di notte ancora mi capitava in sogno di essere giudice alle kiama, le riunioni di anziane e anziani per giudicare e riparare un torto fatto. Non ci si può liberare dell'Africa. Come per te il deserto, Gertrude, per me gli altipiani del Kenya erano divenuti una malattia da cui non sono mai guarita. Individuai persino la mia tomba in Africa, molto tempo prima di lasciare il corpo, su una sorta di terrazza naturale da dove si vedeva tutta la pianura compresa tra il Monte Kenya e il Kilimangiaro. Ogni tanto prendevo l'auto e andavo sulla mia tomba, e da lì, guardando a est, si scorgeva la mia casa. E da lì mi allenavo a vedere il mio luogo dell'anima da lontano. Ebbi un'amica in Africa, Ingrid, che sapeva cosa significava avere una fattoria e terra e animali e mi stette vicina quando dovetti vendere la mia. La sua empatia, la sua sincera commozione e compassione per la mia disgrazia ci resero più che sorelle. Divenimmo una. Piangemmo insieme sulla mia sorte e grazie a lei mantenni il mio collegamento con la terra che amavo. Chi più soffrì della mia partenza, però, furono le anziane Kikuyu. La durezza della loro vita, l'aver partorito e sepolto molti figli, le rendeva selvagge, indomite, resistenti alle malattie, solide e dure come punte di freccia. Quelle donne scure e grinzose che lavoravano la terra dall'alba al tramonto piegate in due erano in grado di trasportare un quintale di legna tenendola sulle spalle fermata da una fascia intorno alla fronte. Non posso dire che si fossero affezionate a me, né io a loro, ma ci rispettavamo e ci tenevamo in grande considerazione, reciprocamente, e in segreto spesso mi ispiravo a loro nelle mie azioni. Il film che fu girato sulla mia vita in Africa creò di me un'immagine molto diversa da ciò che io fui realmente in quella incarnazione. Io non fui mai gelosa, né di Bror, mio marito Blixen, né di Denis Finchaton, il mio amante, né di nessun altro. Tenevo troppo la mia indipendenza e libertà per desiderare di limitare quella altrui. Nel film mi si mette in bocca un certo disappunto per le assenze e i tradimenti di mio marito, cosa che nella realtà non poteva essere né fu. La L'accordo tra me e Bror fu chiaro fin dall'inizio. Fui io a chiedergli di sposarmi, perché solo in quel modo mia madre avrebbe finanziato la fattoria, ma non c'era amore tra noi, né fingemmo mai che ci fosse. Eravamo amici e ci aiutammo a vicenda a liberarci dalle pastoie della vecchia Europa. Io ci mettevo i soldi e lui l'anello, perché diversamente non sarei mai stata considerata una donna rispettabile tra i bianchi della colonia. Tutti sapevano la verità, ma le apparenze erano salve. Bror andava e veniva. Anche lui amava andare a cavallo per giorni negli spazi sconfinati dell'Africa. Non dormivamo insieme, anche se ci accoppiavamo qualche volta. Beh, abbastanza spesso perché mi trasmettesse la sifilide. Non lo odiai per questo. Non sapeva di esserne affetto e di sicuro non potevo pretendere che si comportasse con me da bravo marito. Anche con Dennis ci concedevamo molta libertà. Lui poi non fu l'unico amico che veniva a passare del tempo alla fattoria, anche se sicuramente fu quello con cui mi trovavo più a mio agio. Avevamo molto in comune, specialmente l'amore per la musica, la letteratura e le cose belle. Ne era affascinato dalla possibilità di bere nel cuore dell'Africa il suo vino, nei miei calici di cristallo, anziché nelle scodelle di latta che facevano parte della sua dotazione da campo. Non mi sentivo attratta da nessuna religione patriarcale. L'animismo indigeno era ciò che sentivo giusto. Il sentire e vedere il divino in ogni cellula della creazione e il percepire il mondo popolato da spiriti di ogni grado di benevolenza verso gli umani. L'animismo, alla luce del quale camminai fino alla fine dei miei giorni, mi diede una profonda leggerezza di interpretazione della vita e dei suoi passaggi, e mi diede l'umorismo, ogni giorno stimolato dalla convivenza con gli indigeni. Non persi mai occasione per trarre insegnamenti dalla loro saggezza e dal loro rapporto con la terra e con gli animali, per loro così importanti. Forse fu proprio questo a farmi deporre il fucile. Mi divenne impossibile uccidere gli esseri a quattro zampe che la gente Kikuyu considerava più importante della sua stessa prole. Il mio piccolo cuoco, Camante, fu per me un grande maestro di vita. Era di carattere schivo, strano, altero e indomabile. Camante era stato un bambino molto malato alle gambe, ma fu curato alla missione dove lo portai io stessa. Guarì. E io divenni il centro del suo mondo. Per carità lo assunsi come cuoco, perché le sue gambe rimasero deboli e gli sarebbe stato impossibile vivere un'esistenza normale tra la sua gente. Invece nella mia cucina rivelò uno straordinario talento innato di chef. Anche io amavo cucinare, ero affascinata dall'alchimia dei misteriosi legami che si creavano tra i cibi, tanto che, prima dell'Africa, avevo frequentato un corso di cucina francese. Da lì uscì il personaggio di Babette, anche quello divenuto un film che però mi rappresentò molto meglio di quello sull'Africa, forse perché il regista del mio romanzo, Il pranzo di Babette, danese come me, seppe cogliere meglio di quello americano che aveva diretto la mia Africa le sottili sfumature della mia scrittura. Babette è una chef francese, ex comunarda, che si rifugia presso una congregazione religiosa danese per sfuggire alla cattura. E nella umile casa delle due sorelle che la prendono a servizio senza sapere nulla del suo passato, cucina per i semplici e induriti membri della congregazione un pranzo che scioglie i loro animi spendendo tutto il denaro che aveva. Che gesto meraviglioso, un gesto tipicamente mio. Babette ero io. Io avrei voluto offrire da mangiare e da bere a tutte e tutti coloro il cui cuore aveva bisogno di essere sciolto, perché ero convinta che il buon cibo fosse una vera medicina per l'anima. E Camante aveva questa capacità. Lui metteva in tavola i sapori dell'anima e a casa mia si mangiò sempre divinamente bene. Camante aveva nei miei confronti un divertente, per me, ma estremamente serio per lui, sentimento di indulgenza. Sono convinta che dietro quei suoi imperscrutabili occhi nerissimi pensasse che i bianchi e le bianche davano importanza a una montagna di vere futilità. I nostri dialoghi erano surreali, come l'Africa stessa. Passai lì la parte più bella e importante della mia vita, anche se furono solo 17 anni dei 77 che vissi, interamente dedicati alla fattoria e al continuo tentativo di salvarla dai debiti. Ahimè, non ero venuta in incarnazione per fare l'imprenditrice. Dovevo scrivere, quello era il mio destino. Cosicché, al mio ritorno, non potei far altro che riportare sulla pagina i cieli sconfinati delle pianure africane, i misteri animisti che guidavano la vita dei nativi e le storie fantastiche che avevo narrato ai miei ospiti per intrattenerli dopo cena. Negli anni 30 del Novecento lasciai in Africa il mio patrimonio e i miei sogni e tornai in Danimarca per la seconda parte della mia vita, nella vecchia casa natale, nuda di fronte a mia madre e alle forze della natura. Avevo 47 anni. Nel silenzio della casa di mia madre a Rungsted passai il resto della mia esistenza completamente dedicata alla scrittura, sperimentando un nuovo genere letterario nel quale mescolai il racconto antropologico ed esoterico dell'Africa con le mie vicende personali. Le vicende però non le raccontavo mai direttamente, emergevano come una trama nascosta dalle caratterizzazioni degli indigeni e del rapporto che ebbi con loro. Amavo frequentare i misteri dello spirito, collaboravo alla rivista Eretica, dove avevo carta bianca per indagare il mondo mistico e magico e la cosmogonia che tanto sentivo affine al mio intelletto. E amavo soprattutto scrivere racconti, piccole perle che in fretta iniziavano e in fretta finivano, come uccelli che per un momento si posano a bere sul bordo dell'abbeveratoio in giardino. Oh, sorella Catherine, tu comprendi perché è lo stesso tuo sentire. Scrivevo in Il pranzo di Babette: ciò che abbiamo scelto ci è dato, eppure allo stesso tempo ci è accordato ciò che abbiamo rifiutato. Anzi, ciò che abbiamo respinto è versato su noi con abbondanza. Così la vita riporta equilibrio. Così si può uscire dall'eterno gioco della dualità, perché misericordia e verità si sono incontrate, rettitudine e felicità si sono baciate. Erano le mie parole scritte. Le prime opere le firmai come si usava all'epoca con uno pseudonimo maschile, Isaac Dinesen. In seguito, con il mio nome, fui riconosciuta tra le più illustri penne della letteratura del Novecento. Ma a che prezzo? Come tutte le donne che in vita hanno goduto di un po' di fama, a prezzo enorme. Scrissi i racconti Ombre sull'erba perché sentivo giungere la fine del mio corpo e volevo registrare gli ultimi dettagli della mia vita in Kenya affinché nulla andasse dimenticato. Ora mi rimordeva la coscienza per aver ammazzato tanti animali. Chiedo perdono, perdono dal profondo del cuore per ogni cartuccia non necessaria sparata dal mio fucile. Chiedo perdono a tutti gli animali figli della madre Africa. Non ho mai capito perché lo facevo. Avevo un'inquietudine dentro, avevo paura della morte e dominandola mi sembrava di allontanarla da me. Quando giunse il momento del supremo distacco, ormai dentro quel corpo rinsecchito come vecchia carta da musica, io non c'ero più. La mia missione di cantastorie era compiuta. L'anima si era già staccata dolcemente ed era ritornata a casa, sulle colline Ngong, dove c'era la mia tomba e dove non ci furono mai le mie spoglie. Karen tornò a sedersi. Le mani le tremavano, nonostante fosse abituata a raccontare la sua vita sulla carta. Non le era mai accaduto di aprire la sua anima di fronte alla sorellanza. Si alzò un'altra viaggiatrice che non era giunta così lontano, ma che aveva pur sempre vissuto all'estero e fatto del viaggio una parte importante della sua vita. La donna, avvolta in un elegante drappo blu scurissimo, aiutò ad alzarsi con lei, che le era seduta vicina, che si appoggiò vistosamente al suo braccio. «Noi parliamo insieme», disse la prima delle due, «perché siamo state cugine, oltre che sorelle nella dea. Nascemmo nel continente australe, ma tornammo giovanissime in quell'Inghilterra donde originavano le nostre famiglie. Siamo Catherine Mansfield, indicò l'altra, poi se stessa, e Mary Annette Beauchamp. Anche io, come te, Karen, firmai i miei libri usando il cognome del mio pessimo marito, il conte von Arnim, e il nome Elizabeth veniva dalla prima protagonista dei miei libri, e siccome era di me che parlavo, descrivendo lei, divenni anche io Elizabeth, Elizabeth von Arnim. Tornò a sedersi, aiutando a fare altrettanto colei che le si appoggiava, e Mary Annette, nota come Elizabeth, iniziò a raccontare.